Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente ci occuperemo, la notizia è arrivata ieri in tarda serata, di quello che alcuni hanno chiamato insomma Dios Telecom, o meglio Telecom a tutti gli effetti, non è più italiana nel senso di chi la controlla. Perché lo dico? Perché ieri si è saputo in serata che Telefonica, la Telecom spagnola, che già aveva il 46% di Telco è la società all'interno della quale c'erano vari azionisti, che controllava, anche se con una minoranza relativa, per cui col 25%, controllava il gruppo Telecom Italia, era l'azionista più forte. Questa Telco era composta a sua volta da vari azionisti, tra cui Mediobanca e le Generali, dicevo ieri, e Telefonica ovviamente. Telefonica sale dal 46 al 66% di Telco e dopo l'aumento di capitale da 323 milioni e realizzerà un secondo aumento di capitale da 117 milioni dopo l'ok dell'antitrust in Brasile e Argentina, dove il gruppo Telecom ha le controllate di telefonia mobile, per arrivare al 70% sostanzialmente. Telefonica manterrà i diritti di voto in Telco SpA all'attuale 46% anche dopo i due aumenti di capitale, ma le nuove azioni verranno convertite in titoli con diritto di voto a partire dal prossimo gennaio. A quel punto gli spagnoli potranno nominare 5 rappresentanti nel consiglio della holding, dai 4 attuali, da affiancare ad altri 5 italiani. Fino a ieri sera le quote erano dentro Telco del 46% punto di Telefonica, Generali 30% e Intesa San Paolo l'11%, Mediobanca l'11,6%. Dopo l'aumento di capitale aumenta la quota degli spagnoli e diminuisce drasticamente quella degli italiani, chiamiamolo così. Gli spagnoli appunto vanno al 66%, poi saliranno a 70 e hanno la facoltà di arrivare al 100% nel 2014 a un prezzo prefissato di 1,1 euro per azione. Attenzione, non scatta l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto, lo dico perché alcuni ascoltatori hanno già scritto e hanno detto: bene, allora scatterà un'OPA, un'offerta pubblica a 1,1 euro. No, perché l'OPA scatta se tu sali oltre il 30% del valore della società, ma in questo caso Telco resterà al 25% di Telecom Italia. È dentro Telco che cambiano le posizioni e i rapporti di forza, ma la Telco avrà sempre il 25% di Telecom Italia, quindi non vi sarà l'obbligo di OPA, non scatterà l'obbligo di un'offerta pubblica a tutti gli azionisti di Telecom Italia a 1,1 euro, che sarebbe ovviamente ben vista dagli azionisti perché il titolo vale la metà praticamente. Ma dicevo, Telefonica ha la possibilità di salire, e probabilmente lo farà, al 100% con un prezzo prefissato di 1,1 euro per azione. Mediobanca e Intesa San Paolo sono scesi a questo punto al 7,3%. Faccio solo un raffronto e poi andiamo anche sul resto. Nel 2007, quando la Olimpia, quindi la Pirelli, cedette gruppo Telecom la quota che possedeva, il 22,4%, Telefonica pagò le azioni Telecom 2,9 euro, Telecom adesso vale 60 centesimi. Generali pagò la sua quota 2,7 euro e ha avuto una perdita di 1 miliardo e 300 milioni. Mediobanca e Intesa San Paolo pagarono le azioni 2,8 euro ma conferirono anche quote che già possedevano, quindi la loro perdita è inferiore ed è pari comunque a 400 milioni. Vedo già molti messaggi, ripeto: i piccoli azionisti non hanno, tra virgolette, nulla, nessun diritto, perché la legge prevede che solo se superi il 30% di una società sei obbligato a lanciare l'OPA. Telco in sé resterà ampiamente sotto questa quota, pur essendo chiaramente il soggetto di controllo relativo, perché non esiste un altro azionista così forte. Ne parleremo ampiamente più avanti, anche perché ci sono già varie reazioni. dalla Confindustria che dice: noi siamo neutri, le bandiere non contano, è importante sfruttare le potenzialità e rendere redditiva Telecom Italia. Vedremo poi il piano industriale, preoccupati sindacati, il leader della CGIL Raffaele Bonanni preoccupa la tenuta dell'occupazione, il nodo principale appunto che vengano mantenuti gli occupati in Italia. Franco Bernabé ha detto: Telecom Italia non diventa spagnola perché l'operazione riguarda Telco. Vabbè, adesso, dottor Bernabé, è ovvio che non diventa spagnola, perché se fosse diventata spagnola sarebbe dovuta partire l'OPA, l'offerta pubblica su tutti. Ma è ovvio che se il socio di riferimento prima era diviso a metà tra spagnoli e italiani, e adesso gli spagnoli sono la stragrande maggioranza, abbia pazienza, ma il socio di maggioranza relativa è spagnolo, e quindi l'azionista più importante di Telecom Italia è spagnolo. Tecnicamente non diventa spagnolo Telecom Italia, ma diventa spagnolo il suo azionista di riferimento. Mettiamola così e partiamo con le altre notizie in breve. Intanto partiamo da Telecom Italia, più 2,30% il titolo a 60 centesimi di euro per azione. Si era mosso molto di più ieri, evidentemente qualcuno forse qualcosa aveva saputo. Molto bene invece Fondiaria SAI, più 4,30 Mediobanca, dopo la riduzione della sua quota in Telecom. Tra l'altro su questo c'è stata anche una dichiarazione di Mediobanca stessa. Dall'operazione Telco arriverà un utile di 60 milioni nel trimestre. Realizzerà infatti 60 milioni di utili nel primo trimestre 2013-2014 e riduce il prestito socio di pertinenza per 35 milioni. Comunque, insomma, il fatto che sia scesa dall'11,6 al 7,3% è in linea con il piano ed è coerente con un piano che porterà Mediobanca a uscire del tutto da Telecom Italia. E questo vale anche per le generali, cioè questo devo dire non è una notizia, nel senso che già sapevamo che sia le generali che Mediobanca avevano annunciato, mezzo stampa ma non solo, che sarebbero lentamente uscito, avrebbero diluito sempre più la loro quota in Telecom Italia. Ma torniamo alla borsa, dicevo Mediobanca più 3,34, Fiat Industrial più 3,13, Azimut più 2,80, Popolare Emilia Romagna più 2,12, come Enel il 2% lo guadagna il Banco Popolare, L'1,80 il guadagno di Exor, l'1,60 quello di A2A e di Generali, Eni meno 0,60 come Tenaris, Ferragamo meno 0,50 come il Monte dei Paschi. Le altre notizie in breve, le altre notizie di cui ci occuperemo, avremo da Telecom all'economia reale, come si chiama in gergo, perché è stato preso d'assalto oggi l'evento organizzato per domani dal comune di Chiasso con il titolo Benvenuta impresa nella città di Chiasso. Pensate che le richieste di imprese italiane giunte al sito del comune per prenotare un faccia a faccia in funzione di un possibile trasferimento in Svizzera hanno raggiunto a quota 500. Gli organizzatori si attendevano 150-100 domande. Perché questo? Perché insomma ci sono tanti vantaggi, i dati sono discordanti per carità, ma ne parleremo. Molti imprenditori ritengono che vi siano tanti vantaggi, a partire da quelli burocratici ma soprattutto quelli fiscali, nella possibilità di delocalizzare, trasferire parte dell'attività in Svizzera. Le altre notizie della giornata invece riguardano da un lato un dato che arriva dagli Stati Uniti: le piccole banche devono 2 miliardi e 700 milioni ai contribuenti, sono i fondi ricevuti con il piano di salvataggio, il TARP, che sono diventati aiuti a lungo termine. Nel frattempo dall'Italia oggi di nuovo un po' di botta e risposta sulla legge di stabilità, ha detto infatti il premier Enrico Letta da New York che la legge di stabilità che il governo sta per presentare contiene un programma di bilancio molto importante che prevede anche un consistente taglio delle tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. E il ministro Saccomanni, sempre sulla legge di stabilità, ha detto che le prospettive di crescita economica miglioreranno nell'ultima parte del 2013 e nel 2014 anche grazie agli interventi di sostegno avviati, pari a circa 12 miliardi in tre anni. Il direttore generale del debito pubblico italiano, Maria Cannata, ha precisato che l'Italia ha un punto di svolta, anche se la politica limita l'attrattività del paese, e che gli investitori internazionali sono abbastanza fiduciosi, la percezione è abbastanza buona sul debito pubblico italiano. Ancora alcuni dati dall'Italia: il commercio estero, l'Istat, dato di agosto, più 0,2% l'export extra Unione Europea, e meno 5% sull'anno, le importazioni fanno meno 15%, quindi il surplus commerciale resta, il saldo resta positivo, mentre sempre dall'Italia rallenta la caduta, non siamo in una ripresa, del mercato della casa. C'è ancora un calo del 7,7% nel secondo trimestre dell'anno quanto al numero di compravendite, però il primo trimestre fece un meno 13% il numero di compravendite, quindi è ancora alto, ancora un meno 7, ma è, diciamo, si è dimezzato come calo rispetto al primo trimestre dell'anno. Ancora la situazione delle crisi, delle varie crisi aziendali che si sono aperte in Italia. Per quello che riguarda l'ILVA, il commissariamento dell'ILVA potrebbe essere esteso alle controllate o collegate, con l'eventuale nomina di fino a 3 subcommissari. Io conoscevo subcomandanti, ma i subcommissari ancora no. Lo prevede la bozza del decreto che il governo ha approntato per sbloccare la produzione degli stabilimenti della Riva. Sono 7 stabilimenti, spesso lo ricordiamo, a stabilimenti in attivo, stabilimenti che hanno ordini fino al dicembre per quello che riguarda la Val Camonica e altri stabilimenti. Allora, il ministro Zanonato ha detto che il decreto è pronto, l'approvazione arriverà forse venerdì, ed è molto semplice. Dice: quando il magistrato sequestra ai fini della confisca un'attività produttiva, l'attività produttiva prosegue con il controllo di un custode e con la gestione che viene controllata da parte dei vecchi organi societari. Per carità, molto semplice, molto bello, molto logico, sarebbe stato anche bello averlo prima questo decreto. E poi la vicenda all'Italia, e su questo vorrei subito un aggiornamento da Gianni Dragoni. Tra pochissimo parleremo anche di Telecom Italia, però perché alcuni giornali titolano au revoir all'Italia. Beh, insomma, su Air France dice il ministro Zannato non c'è nulla di concreto, però attenzione, che il calcolo di quello che è costato non cedere all'Italia Air France nel 2008 è un calcolo molto molto dispendioso. Eh sì, il calcolo è di quasi 5 miliardi quello che sarebbe costato, quello che avremmo ottenuto se avessimo ceduto all'Italia, alla Air France nel 2008, quando divenne oggetto dello scontro politico. È praticamente il gettito IMU sulla prima casa preso complessivamente, se vogliamo fare dei paralleli, perché insomma va fatto tutto il calcolo. Air France si offrì nel 2008 di rilevare l'Italia pagando allo Stato italiano in azioni, avremmo avuto 140 milioni di euro più 1,4 miliardi di debiti che si sarebbe accollata Air France, che aveva promesso anche che avrebbe investito 1 miliardo di euro. E tra l'altro visto che poi il costo complessivo dell'operazione, che fu ebbe come regista l'allora numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, su cui il gruppo Eruana era molto esposto, 300 milioni di euro di esposizione, beh, insomma, c'è da sommare i costi che questa operazione, poi le perdite che ha prodotto, sono altri 3 miliardi e si arriva a 5 miliardi. Gianni Dragone del Sole 24 Ore, non male, eh? Buonasera. Buonasera, poi non è ancora finita, non sappiamo come finirà, magari spunterà qualche altro costo. È stato tentato per esempio di chiedere aiuto alla Cassa Depositi e Prestiti sia l'anno scorso sia alcuni mesi fa. Zanonato, che dice di non sapere nulla, si era anche espresso a favore dell'intervento Cassa Depositi e Prestiti. Questo è stato evitato, ma dico, la partita non è ancora finita, però era già tutto scritto dal 2008 che l'intervento, diciamo, di questi soci italiani che Berlusconi chiamò patrioti, in realtà ora si vede che non sono più disposti a mettere soldi in un'impresa che continua a perdere, ma perde anche perché si è investito poco. Comunque, insomma, adesso il bilancio è quello che è, ma bisogna guardare anche al futuro. Tu cosa hai capito dal consiglio di amministrazione di Air France? Perché, insomma, per limitare i rischi, Air France KLM sarebbe pronta a partecipare a una ricapitalizzazione di Alitalia in modo da assicurarsi il controllo della compagnia, ma senza arrivare al 50%? È questo il piano dei francesi? Dal poco che loro dicono, e credo che sia il caso di attenersi a quello, si capisce che loro sono interessati, però dicono che la situazione finanziaria rispetto a quella che loro percepiscono deve essere ora spiegata bene dall'Alitalia. Questo vuol dire che l'Alitalia ha un problema di soldi, soldi finiti e di capitale anche a livello consolidato, sostanzialmente azzerato dalle perdite. Poi giovedì il consiglio dell'Alitalia dovrebbe dire quali sono le cifre esatte. Allora, siccome in questa situazione c'è bisogno anche di un intervento sul patrimonio, di un aumento di capitale, di fronte, per potersi pronunciare su un aumento di capitale in cui i soci dovrebbero mettere altri soldi, Franz dice vogliamo conoscere bene le cifre, sembra che vogliano anche un po', come dire, tirare sul prezzo. Comunque il problema è che se l'Alitalia non trova qualcuno che mette dei capitali è di nuovo in una situazione come di Bad Company, come quella del 2008, per cui il problema è, diciamo, se Air France per esempio dovesse dire io non sono interessata, la domanda rimane: chi mette i soldi per far andare avanti l'Alitalia, visto che i soci italiani sembrano, forse qualcuno è disponibile, ma la maggioranza non sembra disponibile a farlo? E la domanda resta sospesa. All'Italia alla ricerca di 350 milioni di euro entro la fine dell'anno. Va detto una cosa però sui soci italiani, che tutto si può dire tranne che ci abbiano speculato e guadagnato, nel senso che loro stessi, immagino che l'abbiano fatto appunto perché credevano nell'azienda, ci hanno rimesso i soldi, per cui da patrioti, nel senso che ci hanno rimesso i soldi loro. Questo posso aggiungere? Questo è verissimo. Sì, allora, diciamo che intanto la società l'hanno gestita loro, quindi il risultato può dipendere anche da come è stata gestita o no, certamente, no? Non è che era scritto che doveva essere una perdita continua. L'altra cosa è che, se andiamo a vedere, alcuni di loro hanno comunque ottenuto subito, già dal 2009-2008, delle contropartite in altri settori. È un tema che magari andrebbe visto caso per caso, sì, però, ma alcuni, sì, soprattutto Gianni, i più importanti, hanno avuto delle contropartite. Sì Gianni, qui però entriamo in un ragionamento un po' diverso. Io mi riferivo al fatto che chi ha messo i soldi, tu sai benissimo che nel 2008 noi personalmente, come ognuno ha le sue opinioni, ritenevamo che Alitalia andasse ceduta ai francesi. Detto questo, era un'opinione, però chi ha messo i soldi allora, questo stavo dicendo, obiettivamente ha rischiato di suo, come si dice in un linguaggio poco economico, e ci ha perso di suo, per cui va detto che da questo punto di vista non vi è stata nessuna ricaduta. Lo dico anche a chi sta scrivendo sulla collettività, perché i soldi li hanno persi gli azionisti, che poi se poi diciamo per altre vie hanno avuto altri accordi, questo non possiamo saperlo, ma non è questo l'oggetto. Comunque Gianni, noi ci risentiremo, perché prima o poi anche Air France ci farà sapere che cosa ha intenzione di fare su questo aumento di capitale. Grazie a Gianni Dragoni. Adesso da Air France all'Italia, che è una partita ancora tutta aperta, andiamo a una partita che si è chiusa ieri in serata. Alcuni giornali hanno dovuto ribattere i titoli perché è arrivata l'ultima notizia, e la partita si chiama Telecom Italia. Dico subito che Franco Bernabé ha ragione a dire che non è diventata spagnola Telecom, ma ha torto a dire che non è diventata spagnola Telecom. Hey. Perché dico questo? Perché la mia testa è una giungla, è la mia questa volta essere una giungla, perché insomma Bernabé dice non diventa spagnola, è solo Telco. Ho capito, ma Telco è l'azionista di riferimento di Telecom Italia. Allora, non stiamo a prenderci in giro, no? Se tu hai un azionista che ha il 25% di un gruppo ed è l'unico azionista così forte, dentro questo azionista prima c'erano a metà italiani e spagnoli, ossia Telefonica da una parte e dall'altra, adesso la faccio breve, non posso rileggere tutte le quote societarie che ho letto prima, ma c'erano Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo, e a metà era così. Adesso Generali e Mediobanca, come ampiamente annunciato, e anche Intesa San Paolo hanno dimezzato le loro quote e usciranno lentamente, e gli spagnoli hanno l'opzione nel 2014 di arrivare al 100% di Telco. Però siccome magari mi sbaglio, chiedo lumi al vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. Buonasera Alessandro. Buonasera a te Sebastiano. Allora, io non voglio giocare con Franco Bernabé, insomma, spagnola o non spagnola? Spagnola. No, adesso diciamo così, Bernabé in questo momento sta buttando acqua sul fuoco delle polemiche sulla cessione della società o meno. Il fatto sta che l'operazione che è stata annunciata è un'operazione che porta Telecom Italia nell'abbraccio della compagnia telefonica spagnola. Che cosa significa questo? Da un lato possiamo dire che l'Italia sarà l'unico paese europeo a non avere una società di telecomunicazioni nazionale. Tutti i paesi europei hanno un proprio operatore nazionale, ex monopolista o quello che è. Non solo. Paesi come la Francia e la Germania, ad esempio, hanno una presenza pubblica all'interno dei loro operatori che si avvicina con un nocciolo di circa il 30%, chi più, chi meno. Quindi, come vediamo, una situazione molto variegata. Che cosa si poteva fare? Beh, certamente un po' sembra speculare della situazione di Alitalia. Fra l'altro c'è anche strano come le due operazioni, le due grandi privatizzazioni Telecom e Alitalia vadano a compimento in mani straniere tutte e due simultaneamente, perché la stessa settimana per entrambe le operazioni, in entrambe le operazioni c'è una società straniera che sta comprando e in entrambe le operazioni c'è una società straniera che sta comprando controvoglia. Questo è l'altro aspetto un po' paradossale. È noto che Telefonica, un po' come Air France, non voleva fare l'operazione Telecom, perché in questo momento per Telefonica significano investimenti da centinaia di miliardi di euro, non solo per se stessa, ovvero l'espansione della società telefonica spagnola, ma anche per sostenere gli investimenti che ha promesso entrando in Telecom Italia. La vera sfida, la vera partita con Telecom, tra Telecom e Telefonica nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, si giocherà non soltanto in Brasile sull'antitrust, se in Brasile va in sovrapposizione con l'operatore, con la società controllata dagli spagnoli, ma si giocherà sulle garanzie che Telefonica, e in questo senso quella hanno fatto da garante Mediobanca, Intese e Generali, perché questo ci è stato detto, cioè se gli impegni telefonici di investire sulla rete di telecomunicazione italiana, di investire affinché Telecom Italia non diventi una semplice filiale straniera di Telefonica, beh insomma dovremo vedere che questi impegni diventino una certezza, altrimenti ci sarà un impaurimento non solo, diciamo così, societario italiano, ma soprattutto tecnologico, e la possibilità in Italia di avere una banda larga che vada dagli Appennini fino alla Sicilia, dalle Alpi fino alla Sicilia. Allora, su questo vedo molti messaggi, ne parliamo dopo il metodo della pubblicità. Da un lato i risparmiatori, devo rispiegare, ma poi lo chiariremo anche con Alessandro Paterotti. Siccome questa operazione avviene non su tutta Telecom Italia, ma dentro Telco, che ha il 25%, la legge prevede l'obbligo di offerta pubblica a tutti gli azionisti solo se superi il 30%, se arrivi al 30%. In questo caso Telco resterà ampiamente sotto questa quota, quindi l'offerta di 1,1 euro per azione è solo per i soci di Telco, Intesa, Generali e Mediobanca, non per gli azionisti fuori. Quindi lo dico a chi immagina che con un titolo a 60 centesimi domani va a comprare Telecom Italia, non c'è nessuna evidenza che verrà offerto 1,1 euro agli azionisti di Telecom Italia. Il secondo aspetto, che però forse meriterebbe una riflessione anche più approfondita dello spazio che abbiamo oggi, è un po' di timore. Io sono d'accordo con la linea, che devo dire ho già visto anche in Confindustria, che non è un problema di bandiere, c'è un mercato, siamo in Europa, l'abbiamo sempre detto. Però attenzione, la storia di Telecom Italia a mio avviso è la storia di come non si fanno le privatizzazioni. Poi faremo magari una puntata un giorno su questo, perché era un bel gruppo pubblico, avevamo il primo gruppo di telefonia mobile, TIM, che era l'ex Sì, in Europa, il terzo gruppo in Europa che si chiamava al tempo Omnitel, abbiamo venduto Omnitel per comprare Telecom. Insomma, chi ha messo le mani su Telecom diciamo che non ha creato valore. Dalla Fiat allora, con nocciolino duro, privatizzazione fatta forse male, troppo piccolo l'azionista di controllo, a Colaninno che non è riuscito a fare quello che voleva fare perché i soci si sono sfilati, e poi a Tronchetti Provera e all'ultima gestione. Telecom Italia non è stato un bel esempio, questo si può dire, di privatizzazione. Alessandro Patrotti, su questo una battuta. Sì, una battuta rapidissima, ma non è che è stato, non è stato un bel esempio di privatizzazione, è che Telecom è stata l'ennesima illusione di poter fare privatizzazioni senza un vero mercato finanziario e dei capitali alle spalle. Negli altri paesi, quando una società viene privatizzata, ci sono i fondi specializzati, ci sono gli operatori di borsa, insomma c'è un mercato che sostiene queste operazioni. Purtroppo in Italia il mercato è una scoperta recente, solo da poco ci siamo accorti che esiste una borsa, quando è stata venduta a Londra tra l'altro, e solo da poco ci siamo accorti che non abbiamo dei fondi di investimento specializzati nelle imprese italiane, in grado di investire su imprese italiane come specializzazione. Questo è un problema, perché non si può far leva o il conto soltanto su imprenditori di altri settori che vengono ad investire per salvare situazioni critiche, come ad esempio è stato il caso di Alitalia. Io sono perfettamente d'accordo con te quando bisognerebbe un po' ristabilire la verità. Se era un'operazione fatta male in origine, non possiamo prenderci con chi ha messo risorse proprie per cercare di dare una risposta a migliaia di dipendenti che sarebbero stati licenziati, perché ricordiamolo, con l'operazione che ha imposto al governo rifiutando la cessione dall'Italia, all'Air France, all'Italia sarebbe finita direttamente al tribunale fallimentare. Sì, tra l'altro noi che comunque dicemmo vabbè, vinca il migliore, se c'è Air France la prende Air France, però è chiaro che Air France avrebbe trasformato l'Italia, diciamocela tutta, in una compagnia nazionale con tutti i voli su Parigi, con un rischio per l'occupazione. Io però, ripeto, non ho cambiato idea sul 2008, ho detto una cosa diversa, lo dico a chi sta scrivendo e ha capito poco, dice che sono diventato statalista, che insomma, ho detto semplicemente una cosa si può dire, che chi ha messo i soldi nell'Italia e ce li ha anche persi, insomma, ha rischiato di suo, tutto qua, per cui uno poteva non essere d'accordo con il tipo di operazione, poteva essere d'accordo che fosse meglio darla subito ai francesi con tutti i rischi connessi, e io personalmente la pensavo così, ma non si può dire che questi hanno messo i soldi nell'Italia per guadagnarci sopra, perché per ora ci hanno solo perso. Ma Sebastiano, almeno un'ultima cosa che possiamo dire è questa: c'è un forte rammarico, e tu giustamente l'hai fatto osservare prima, perché questa operazione avviene tutta tra azionisti, non avviene col mercato, cioè chi ha comprato e chi ha nei propri portafogli, chi l'ha preso addirittura come liquidazione, che lavorava in Telecom Italia, i titoli della società telefonica, lì ha benefici zero. Questa è un'operazione che viene fatta tutta a un livello superiore e sul mercato non viene niente, e crea rammarico, ripeto, adesso, anche alla luce di un'altra operazione, quando Enel andò a comprare la società elettrica spagnola Endesa, fece un'OPA, cioè offrì un prezzo di acquisto delle azioni di cui beneficiò tutto il mercato. In diretta con Sebastiano Barisoni, dicevamo, vedo moltissimi messaggi su Telecom, l'italianità, ragazzi, c'è un mercato, di cosa stiamo parlando? Nel momento in cui i soci italiani, perché hanno perso, attenzione perché qua bisogna anche capirsi, la perdita dei vari soci italiani è stata pesante, pensate che Generali pagò la sua quota 2,7 euro, ha subito una perdita di 1 miliardo e 300 milioni, Mediobanca e Intesa San Paolo pagarono le azioni di Telecom 2,8 euro, però conferirono anche quote che già possedevano, e quindi la loro perdita è minore, ma comunque siamo a 400 milioni di euro di perdita. Ora, se gli azionisti italiani, e vale per tutto, vale per Bulgari, vale per varie vicende che abbiamo raccontato, vale per loro piana in questi mesi e anni, a questo punto, se gli azionisti italiani non ci sono o si sfilano e decidono, per motivi per loro corretti, che non vogliono più continuare a perdere soldi, come spiegava bene Alessandro Platerotti, gli spagnoli hanno dovuto aumentare la quota controvoglia, ma è inutile gridare alla perdita di italianità. Francia o Spagna, purché se magna, cosa dobbiamo fare se non ci sono i soci italiani? Vorrei capire invece se è corretta la rabbia dei piccoli azionisti, la vedo montare anche sugli sms e in altri casi, e ne parliamo anche con chi analizza il titolo Telecom Italia da un punto di vista del mercato, perché vorrei capire esattamente appunto se qualcuno si sarebbe dovuto aspettare un'OPA. A mio avviso no. Comunque grazie a Pierluca Beltramelli, gestore azionario di Aletti GSTL, buonasera. Buonasera. Ecco, secondo lei insomma, monterà sempre di più questa rabbia del... anche perché ci scrive gente che giustamente ha in carico le Telecom a 3 euro, a 3,50 euro, a 3 euro, a 2,50 euro. Qui siamo completamente dentro il perimetro di ciò che prevede la legge, Beltramelli. Ma assolutamente sì. Oggi direi che il passaggio fondamentale era quello di creare un passaggio di discontinuità all'interno dell'azionariato di Telecom Italia. Le banche non possono più finanziare gli sviluppi industriali di una società, i ratio patrimoniali non lo permettono più e giustamente deve passare alla logica che ci deve essere un socio industriale e non un socio finanziario. Questi soci finanziari già non avrebbero accompagnato Telecom Italia negli investimenti futuri, l'avevano già dichiarato. Quindi il fatto che queste società finanziarie siano uscite, secondo noi, è un primo passo di discontinuità rispetto al passato e dobbiamo vedere arrivare investitori industriali che abbiano un progetto industriale. Quindi secondo noi il passaggio è un primo passaggio, era un passaggio obbligato, direi che aspettarsi un'operazione di offerta sul mercato forse era troppo difficile in questo momento, anche perché Telefonica per esempio ha già degli asset in Brasile, quindi ha dei grossi problemi a livello potenzialmente di antitrust. Quindi direi che il primo elemento positivo secondo noi è la discontinuità. Passiamo da un socio industriale, da un socio finanziario a un socio industriale e dovremo vedere soprattutto il 3 ottobre un piano industriale per questo gruppo. Quindi voi dite, intanto, se ho ben capito, meglio così, perché dalle banche, cioè Generali, Mediobanca, Intesa San Paolo, i soci finanziari, che non potevano più continuare a mettere soldi, anche perché quando una banca presta soldi, deve, adesso è un po' difficile da spiegare, ma se li presti a un soggetto che è a rischio, devi accantonare di più, quindi insomma i ratio patrimoniali di Telecom diventavano sconvenienti, da un lato, ma dall'altro voi dite, a questo punto alle banche si sostituisce Telefonica, che è un socio industriale, perché fa quello di lavoro. Io vorrei riprendere il commento che ha appena fatto un ascoltatore. Telecom, meno male che qualcuno compra, invece che gridare all'italianità oppure alla colonizzazione, meno male che qualcuno compra, perché se qua Telefonica non si fosse mossa, probabilmente, però vorrei sapere anche il suo punto di vista, staremo parlando di una crisi aziendale di Telecom Italia. Ma direi di sì, più che altro magari non si sarebbero prese delle decisioni che sono fondamentali per la società. Ormai credo che ogni società, anche italiana, deve guardare al mercato europeo e anche nelle telecomunicazioni ormai si sta creando un mercato europeo, quindi per stare sul mercato bisogna avere le spalle larghe e fare gli investimenti necessari a competere con dei grossi player. Il consolidamento nel settore della telefonia in Europa è appena iniziato, abbiamo visto anche movimenti da operatori anche americani che hanno comprato pezzi di aziende da Vodafone, quindi ci sono società che adesso sono pronte a investire, a partecipare a questo consolidamento. Come nelle banche si sta facendo l'unione bancaria, anche nel settore telecom vediamo la possibilità di creare un mercato europeo. Abbiamo visto l'operazione Verizon con Vodafone, abbiamo visto l'operazione soprattutto Microsoft su Nokia, insomma si muove. Non penso che in Finlandia il problema sia stato la nazionalità di Nokia, visto che si è comprata Microsoft. Per cui il mondo delle telecomunicazioni si sta muovendo, ne abbiamo parlato molte volte in queste settimane, andando diciamo a agglomerare chi ha la rete, chi ha il supporto fisico, il tablet, e chi ha il software e poi i contenuti da metterci su questo software, per cui l'integrazione sarà sempre più forte. Prego. Se posso aggiungere, cioè, per noi è importante anche che ci sia finalmente una società che possa fare investimenti. Credo che per il sistema paese, anche Italia, Telecom Italia deve fare gli investimenti necessari nel broadband, nello sviluppo della rete, perché sicuramente porterà anche poi dei vantaggi in termini di crescita del nostro prodotto interno. Quindi il sistema paese aveva bisogno di una Telecom Italia capace di investire. Ad oggi con questi azionisti non c'era la possibilità di farlo e si è perso probabilmente anche qualche anno di tempo. Quindi speriamo che questo passaggio sia un primo passaggio verso una discontinuità e attraverso investimenti che l'Italia non può perdere, deve fare. Direi che investimenti nelle reti, che siano reti gas, che siano reti elettriche, che siano infrastrutture, che sia una rete telecom, sono fondamentali per il paese. Ecco, voi vi attendete che comunque verrà ceduta l'infrastruttura? Allora, Telecom ha due cose: ha la rete, gli abbonamenti, insomma, quindi la telefonia come tutti noi lo immaginiamo, ma anche e soprattutto ancora la rete che serve a tutti, non serve solo a Telecom, è la rete di telefonia. Allora, già ieri l'antitrust, l'autority, la GCOM si era espressa, l'obiettivo è arrivare a una separazione, un po' come in altri settori, tra la rete in senso stretto, cioè i binari dove devono circolare le telefonate e tutti i dati, e invece Telecom come operatore di telefonia come altri. Perché molti ci chiedono, beh, attenzione, però potrebbe essere pericoloso se l'infrastruttura, che è un elemento strategico come sono le infrastrutture energetiche o quelle ferroviarie e stradali, passasse in mano straniera. Sicuramente l'infrastruttura è importante, come dicevo prima, gli investimenti infrastrutturali sono quelli secondo noi che al sistema Italia servono e devono continuare, e devono sicuramente anche rimanere sotto l'attenzione del governo italiano. Quindi è già in atto una discussione sullo spin-off della rete, quindi non è niente di nuovo, il processo sembra andare avanti, credo che anche qui dovremmo avere novità entro il piano industriale che dovrà essere visto il 3 di ottobre, quindi pensiamo che su quel lato lì ci sarà sicuramente un ulteriore sviluppo con eventualmente uno scorporo della società dal gruppo Telecom, ma soprattutto la cosa importante con una ripartenza degli investimenti consistenti per rimanere sul mercato. Quindi voi in prospettiva siete più ottimisti adesso sul titolo di prima? Ma noi pensiamo che sia il settore che anche Telecom Italia siano una buona opportunità di investimento, in quanto siamo all'inizio di un processo di consolidamento, le società devono fare investimenti, questi investimenti sicuramente avranno anche dei ritorni interessanti, bisogna sicuramente avere le economie di scala necessarie per farli, quindi è fondamentale che comunque si prosegua in questo processo di consolidamento, e pensiamo che ad oggi le valutazioni già scontino uno scenario negativo, quindi ci sia spazio per un recupero. Grazie Pierluca Beltramelli, gestore azionario per Aletti GSTL. Non vi dico cosa state scrivendo. Allora, nell'ordine, è verissimo che TIM prima della privatizzazione era il numero uno in Europa, l'abbiamo già detta. È verissimo che gli allora boiardi di Stato, Pascale e Gamberale, crearono in realtà un gruppo di eccellenza, Gamberale inventandosi le carte prepagate primo al mondo, che permisero sostanzialmente, la dico con una battuta, ma fino a un certo punto, ai genitori di dare telefonino ai figli, e da lì esplose il mercato dei cellulari e non solo. Ed è verissimo che la privatizzazione di Telecom è stata fatta male e che la politica si è sempre messa in mezzo, sia col centro-sinistra, D'Alema, Presidente del Consiglio, sia col centro-destra, Berlusconi. Va bene, adesso basta con Telecom Italia e con Alitalia, parliamo degli altri titoli, iniziamo a parlare degli altri titoli di borsa. Fondiaria Assai più 4,44%, Mediobanca più 3,60%, Fiat Industrial più 3,30%, Azimut più 2,80%, Popolare Emilia Romagna più 2,5%, il 2% lo guadagna Enel, il Banco Popolare, ma anche Exor. Telecom, per inciso, ha guadagnato alla fine l'1,70%, meno di ieri, a 60 centesimi di euro per azione. Male invece Monte dei Paschi, meno 0,50%, ma poco mossa. Le altre borse, più 0,50 Parigi, più 0,30 Francoforte, più 0,20 Londra. E per inciso piatta Telefonica in Spagna. Mediobanca, iniziamo subito con Ciao Condi, Radio Colle sulle 24 ore. Mediobanca, ciao, buonasera Generali, a tutti. Scusami. Eh sì, Mediobanca e Generali comunque sono due soggetti assolutamente diciamo interessati a quello che è stato il riassetto di Telecom, dal momento che detenevano rispettivamente l'11,6 e il 30,6% di Telco, che era appunto la scatola che controlla Telecom. Mediobanca, grazie al riassetto, registrerà una plusvalenza di circa 60 milioni nel primo trimestre, che poi è il terzo trimestre per le aziende che iniziano appunto l'esercizio il 1 gennaio, e quindi balza immediatamente del 3,6%. Bene anche Generali, che guadagna l'1,4%. Andiamo a vedere anche Intesa San Paolo, visto che ci siamo, che era un altro soggetto azionista di Telecom. Intesa San Paolo un pochino più freddo il mercato, più 0,4%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sulla vicenda Telecom e anche su Facebook. Tutto si può dire, tranne che, come scrive qualcuno, dal Britannia nel 92 a Telecom tutto è compiuto. Il Britannia fu quel famoso incontro sullo yacht della regina Elisabetta, a cui partecipò anche Mario Draghi, che allora non era il Mario Draghi della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, era in Goldman Sachs. La teoria vuole che lì ci fu l'accordo per svendere il paese agli stranieri. Ora, tutto si può dire della vicenda Telecom Italia, tranne che l'abbiamo svenduta agli stranieri. Insomma, dal nocciolino di Fiat a Tronchetti Provera, passando per Colaninno, erano tutti italiani gli azionisti. Cioè, quindi, cosa c'entra il Britannia nel 92? Abbiate pazienza. Torniamo alla borsa invece con Ciò Condin. Al di là delle reazioni positive su Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo, che cresce però di meno, molto forte Fondiere SAI oggi più 4,44%. Eh sì, infatti sono arrivate le convocazioni per le assemblee straordinarie che poi dovranno portare alla, diciamo, alla fusione a 4, che poi è l'esito di un altro riassetto molto sofferto, che è quello appunto della ex Galassia Ligresti. Così Fonsai segna più 4,4%, salgono anche tutti gli altri titoli coinvolti nella partita, appunto nella fusione a 4, Milano Assicurazioni più 4%, Unipol più 3%, Premafin più 5,5%. Ricordiamo che l'obiettivo del management di Unipol è quello di sostanzialmente chiudere l'operazione entro quest'anno e poi esordire a Piazza Affari col 1 gennaio. Ancora tra i titoli, Fiat Industrial, visto che molti ci chiedono anche che cosa capiterà agli azionisti di Fiat Industrial e di CNH dal 30 settembre. Ieri ha comunicato che non ci sarà nessun recesso, no? Sì, sostanzialmente Fiat Industrial non avrà alcun esborso derivante dall'esercizio del diritto di recesso. In sostanza ci sono state delle domande superiori a quella che era poi l'offerta di azioni per il diritto di recesso. Ciò significa che fondamentalmente per il gruppo che fa capo al Lingotto non ci sarà nessun esborso extra e pagherà tutto carta contro carta. Sicuramente una prospettiva apprezzata dagli operatori di Piazza Affari, perché Fiat Industrial ha fatto più 3,3%. Ancora Enel con l'annuncio anche di dismissioni in Russia. Sì, Enel continua una campagna di dismissioni che è finalizzata essenzialmente ad abbattere il debito, che è il principale problema della società energetica. Oggi ha annunciato un'operazione che era un po' nell'aria da tempo, ha ceduto il 40% di Arctic Rus, una joint venture che ha in essere con Eni e con altre aziende del settore, e ha ricevuto un corrispettivo cash, quindi di cassa, di 1,8 miliardi di dollari, un ammontare che il numero uno della società, Fulvio Conti, ha subito chiarito che andrà appunto ad abbattere il debito. Migliori e peggiori della seduta anche oggi, tra i migliori troviamo Cell Therapeutics più 11,90, IMSI più 7%, Mer Tecnimon più 6,70, Seat Pagine Gialle più 6,20 e Indesit più 5,70, ma anche la Premafin Finanziaria più 5,50. E poi sul fronte opposto invece la Invest meno 9,20, Banco di Desio meno 5,80, Enertronica meno 3,70, Yux meno 2,40%. Grazie a Ciò Condin, a Radio Cori, Sole 24 Ore. Volete sapere del CDA? Ciao, mi senti ancora? Sì. Notizie dal Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi? Per adesso no. Perché è ancora in corso, deve approvare il piano di ristrutturazione chiesto dall'Unione Europea alle banche per il via libera definitivo ai 4 miliardi di Monti Bond. C'è un aumento di capitale chiesto dall'Unione Europea da 2,5 miliardi e poi ci sarà probabilmente nel piano anche un taglio dei costi, compresi, ahimè, forse altri tagli al personale. E da Telecom all'Italia e anche in questo caso al Monte dei Paschi passiamo a quella che si chiama in gergo economia reale, perché domani c'è un appuntamento importante al confine, dopodomani scusatemi, al confine tra Italia e Svizzera, per la precisione a Chiasso, ed è il nostro sogno di oggi. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il sogno, ed è veramente un sogno, è quello di non avere un paese in cui le imprese, soprattutto quelle che stanno vicino al confine, vengono tentate ogni giorno di andare, chi in Carinzia, chi in alcune regioni dell'Austria, chi di altre regioni dell'Austria, chi in Slovenia e chi in Svizzera. E non ci vanno perché cercano un costo del lavoro più basso, sia ben inteso. Ci vanno per la pressione fiscale in questo paese, ma anche e soprattutto, vorrei essere molto chiaro su questo punto, per quelli che sono i costi indiretti che questo paese ha e che io non capisco perché non vengono smantellati, che si chiamano oneri dovuti alla burocrazia. Molte volte l'abbiamo raccontato, il fatto che in Spagna e in Francia ci voglia un terzo del tempo rispetto all'Italia per aprire uno stabilimento. Io non capisco perché nessun governo abbia fatto la riforma della semplificazione burocratica, la Bassanini per le imprese, l'autocertificazione per tutto, poi se uno mente va in galera, ma intanto facciamo partire gli investimenti. E dicevo, nessuno abbia voluto fare la semplificazione burocratica, la Bassanini per le imprese, come la chiamo io, perché a costo zero, anzi avrebbe un vantaggio per il paese, perché se poi l'impresa investe e parte, poi pagherà le tasse, ci sarà l'IRAP, ci sarà l'IVA, per cui lo Stato ne avrebbe un vantaggio. Allora, siccome sono riforme a costo zero, perché semplificare basta un tratto di penna, eliminare lacci, lacciuoli, vincoli, 6, 7, 8 livelli di autorizzazione, l'unico sospetto che mi viene è che questa riforma a costo zero non sia mai stata fatta, perché la blocca di fatto chi ottiene un potere dalla burocrazia, e si chiamano organi della pubblica amministrazione, i capi dei dipartimenti, i capi, diciamo, degli snodi del sistema burocratico italiano, che attraverso il meccanismo del veto, il potere di veto, vivono un potere immenso. Altri motivi non ne vedo. Intanto è stato preso d'assalto l'evento organizzato dal comune di Chiasso col titolo Benvenuta impresa nella città di Chiasso. Bisognava mandare una richiesta al comune di Chiasso per prenotare un faccia a faccia per chi avesse in mente di trasferirsi eventualmente in Svizzera. Si aspettavano 150 domande, sono arrivati a 500. E allora vorrei parlarne con il sindaco di Chiasso, Moreno Colombo. Buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. E anche con un imprenditore della provincia di Como, Carugo, è il paese, che è titolare dell'azienda Artigiani del Marmo, lavorano chiaramente il marmo e i graniti, e insomma ci sta pensando anche lui, se ho ben capito. Giuseppe Caggiano, buonasera. Buonasera a tutti i radiospettatori. Allora, Caggiano, partiamo da lei, perché lei ha una classica impresa italiana, cioè pochi dipendenti, 6 dipendenti. Perché se ne vuole andare a Chiasso? No, non è che io voglio andare a Chiasso, io voglio andare all'invito che ha fatto il sindaco, sì, di Chiasso, per sentire quelle che potrebbero essere le agevolazioni fiscali, i nostri adempimenti, e poi, come hanno spiegato bene a Chiasso, loro vogliono vedere le aziende per capire anche che tipo di azienda vuole trasferirsi a Chiasso, perché giustamente loro faranno sicuramente una selezione, perché essendo svizzeri vogliono la precisione in ogni caso. Quindi io vado a vedere e a sentire. Poi tra trasferirsi, purtroppo non è così facile, perché comunque non siamo un'azienda che produciamo marmi, il nostro marmo, i nostri macchinari, la nostra struttura è pesante. Mi interessa sentire, non mai per me, per i miei figli in futuro. Ma la cosa, diciamo, che potrebbe più allettarla qual è? La pressione fiscale, perché anche sulla pressione fiscale più bassa ci sono diverse opinioni su questo fronte, però o diciamo i vincoli burocratici oltre che la certezza del diritto, come giustamente nota un ascoltatore? Sicuramente tutto, sia l'abbassamento del carico fiscale sull'impresa, sia lo smaltimento di quello che è la burocrazia. Se loro sono più semplificata, per noi lavorare diventa più facile. Qui in Italia è diventato veramente un inferno lavorare ormai, non ce la fa più. La gente non riesce più a lavorare, la gente dalla burocrazia alle tasse è diventato come un debito, come il debito dello Stato, no? Che è quasi ormai improponibile, quindi c'è poco da dire. Io spero di non dover andare nei prossimi anni, spero di rimanere in Italia, spero che l'Italia diventi competitiva, che faccia per noi quello che non ha mai fatto, ma purtroppo i nostri politici in questo momento sono infossati da qualcosa che non si capisce che cos'è. Quindi o li tiriamo fuori noi dalla buca, così hanno un modo di camminare più retti, ecco. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Eh sì, il sogno è anche non avere un paese che è in cima alla classifica e alla lista dove la pressione fiscale è più alta per le imprese. Ci sono tanti dati in giro, quelli del governo, ma non tengono conto di altri oneri. Insomma, io prendo la Banca Mondiale, così la facciamo finita. L'Italia ha una pressione fiscale sulle imprese, sommando quella sui profitti e quella sul lavoro e anche i contributi, che arriva al 68%. Pensate che la Germania ce l'ha al 46%, perfino la Svezia, che forse ha qualche servizio e un welfare che funziona un po' meglio, ce l'ha al 52%, la Polonia al 43%, la Danimarca al 27% e la Svizzera al 30%. Per la precisione, la pressione fiscale sui profitti delle aziende è al 22,8% e quella sul lavoro e i contributi è al 43,4%, ecco che si arriva al 68,4%. Sindaco di Chiasso, Moreno Colombo, state speculando sulle nostre difficoltà? Ma no, noi avevamo un'esigenza e questo progetto è partito da 2 anni a questa parte, nel senso che abbiamo avuto anche noi una riduzione di occupazione degli spazi per uffici dovuto al mondo finanziario che si è ridotto in questi anni. E quindi abbiamo fatto un lavoro pubblico-privato, abbiamo fatto un censimento di tutti questi spazi lasciati liberi e abbiamo messo questi spazi in una mappa di Chiasso. Questo progetto è stato poi anche premiato dalla Confederazione come progetto pilota e adesso questo lavoro lo stanno facendo tutti i cantoni della Svizzera. Quindi vi saranno anche altre offerte, secondo lei, per le imprese italiane? Io penso che a breve, anche dopo diciamo l'evidente richiesta, almeno di avere qualche notizia da parte di questi numerosi imprenditori, arriveranno delle altre proposte anche in altri cantoni. Io penso a Basilea con la Germania, verso l'Austria, e nella Svizzera francese verso la Francia. Io penso che se ne vedranno molte di queste attività. Evidentemente, voi che cosa offrite? Io parlavo delle tasse, della burocrazia, ma insomma, mi dica, perché avete ricevuto 500 domande su 150 che prevedevate, prego. No, noi evidentemente faremo una presentazione molto trasparente giovedì mattina, indicheremo in modo chiaro, ci sarà presente un avvocato, ci sarà presente un fiscalista, quali sono le attività che si devono fare per poter insediare sul territorio un'azienda. In quel momento lì diventerà un'azienda svizzera. Ecco. Quindi lei ha parlato bene nella presentazione del tema legato al fisco, ha parlato bene anche dei costi importanti indiretti, degli oneri di burocrazia, ecco, qui ce ne sono veramente pochi. Si pensa che puoi iscrivere una società in 10-15 giorni, e poi la sicurezza del diritto, qualcuno ha anche parlato di questo, che secondo me è importante. E poi anche sulla medesima attività, perché Noi abbiamo avuto delle esperienze, sarà l'esperienza di una vita come Bravo Fly, volare quasi gratis, volare gratis, che è arrivato da Milano in pochi anni e si è sedato completamente a Chiasso, spiegherà cosa ha trovato in Ticino. Ha trovato che non è necessario avere il commercialista che ogni mese prepara gli stipendi ai dipendenti, li si fa in casa, è abbastanza qualche semplice tabella e un impiegato in gamba prepara gli stipendi per tutti i dipendenti. E poi evidentemente anche il comune è molto pronto a ricevere eventuali richieste di posteggi, di determinate facilitazioni. Ecco, noi abbiamo improntato un po' una riscossa per il nostro tessuto imprenditoriale di Chiasso, che vorrei ribadire ancora una volta si occupa del settore dei servizi. No, no, questo è chiarissimo. Dunque, non posso leggere, ne abbiamo parlato decine di volte su quelli che sono gli oneri burocratici, trattare con la ASL, ASL che pensano diversamente, livelli inutilmente diversi, insomma, il casino burocratico di questo paese quando deve avere delle autorizzazioni. Però vorrei chiudere con una speranza, che non è quella, mi perdoni il sindaco di Chiasso, di vedere le imprese italiane che vanno a Chiasso, ma le imprese italiane che restano in Italia. Caggiano, se io fossi Letta o comunque fossi il ministro alle attività produttive, lei che cosa vorrebbe sentirsi dire a me per restare a Como, a Carugo per la precisione? Due cose: taglio del costo del lavoro e taglio della burocrazia per lavorare, ma immediatamente, come hai detto te prima, con una depennazione. Questo non bisogna più pagarlo, questo non bisogna, lasciamo in mano più soldi agli operai e mettiamo meno burocrazia alle aziende. Poi le aziende italiane ce l'hanno loro l'inventiva per andare avanti, ma come hai detto te, 68% di pressione fiscale. In Svizzera c'hanno la metà di noi. Io posso avere due aziende in Svizzera allora e pagare quello che pago in Italia, però guadagnerei il doppio? Dai, stiamo andando oltre veramente il reale qua in Italia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Vabbè, Caggiano poi ci sappia dire cosa le raccontano a Chiasso. Stiamo andando oltre il reale, non so se nell'irreale o nel surreale, e non capisco perché una parte del paese non se ne accorga. Devo dire che ha fatto bene anche il sindaco di Chiasso nel ricordare che oltre agli oneri burocratici, che vanno eliminati con un tratto di penna, ci sono anche gli oneri di poche liberalizzazioni, cioè chi campa su questa burocrazia, su questo fisco da interpretare? Ci campano gli avvocati, i commercialisti, i notai, ne abbiamo parlato mille volte, so già che adesso mi arriveranno decine di mail di protesta dei vari ordini professionali, ma insomma, no, non si capisce perché in alcuni paesi non esiste la figura del commercialista e da noi sì. Non ce l'ho con i commercialisti, che poi il mio mi toglie il saluto, però voglio dire, ma sarà mica possibile che in Svizzera basta un impiegato, da noi ci sono commercialisti che passano ore e ore per capire quale sia poi effettivamente il prelievo fiscale da applicare. Tutto questo, diciamo, va a vantaggio di chi ci guadagna su costi e oneri impropri di sistema, perché è improprio, secondo me, dover rivolgersi al commercialista perché non si riesce con questo peso a fare una normalissima dichiarazione dei redditi. Così mi sono fatto fuori anche i commercialisti. E va bene così. Grazie con il sindaco di Chiasso Moreno Colombo, grazie anche e in bocca al lupo a Giuseppe Caggiano, imprenditore di Carugo, uno di quelli dei 500 che sarà fra due giorni appunto a Chiasso. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, o almeno spero. Radio 24, la passione si sente. Sistema completo, il pacchetto pieno di servizi di TNT Post, scoprilo su tntpost.it. Vi ha presentato Focus Economia.